Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Si dice spesso che il Mediterraneo non offre condizioni di vento paragonabili a quelle dei mari del nord. Cioè, sicuramente è vero, ma questo non significa che non ci sia un potenziale anche elevato da sfruttare, magari anche ricorrendo a delle tecnologie ad hoc. Però bisogna essere capaci, più di quanto non debbano fare i cugini tedeschi, danesi e così via, di scegliere in modo molto mirato le location dove installare gli impianti eolici. Ebbene, per quanto riguarda almeno l'Adriatico, sta partendo un progetto che ha come fine proprio la mappatura del vento. Capofila del progetto è la regione Abruzzo, ma ci sono anche le altre regioni adriatiche, c'è il Ministero dell'Ambiente italiano, sono coinvolte varie istituzioni degli altri paesi che si affacciano sull'Adriatico, Croazia, Montenegro, Albania, e inoltre c'è l'Università Politecnica delle Marche. Noi parliamo di questo progetto con Renato Ricci, che proprio al Politecnico delle Marche insegna energetica ed è anche coordinatore scientifico del progetto. Buonasera Ricci. Buonasera dottor Melis, a lei e a tutti gli ascoltatori. Dunque, parliamo innanzitutto di realizzare una rete di rilevamento, vero? Esatto, perché il problema che lei ha portato a conoscenza degli ascoltatori è reale, nel senso che la conoscenza della ventosità del mare Adriatico è modesta. La maggior parte delle reti di rilevamento oggi presenti sono di tipo terrestre, con anemometri molto bassi. Invece a noi interessa conoscere il vento con un dettaglio migliore per poter comprendere se ci sono o meno le possibilità per un'installazione di turbine eoliche in condizioni offshore. È chiaro che questo richiede l'installazione di una nuova rete di rilevamento, l'installazione di reti dove le torri che portano i sensori, perché di torri di misura del vento si tratta, sono alte dai 45 ai 60 metri, sì, in modo da rappresentare al meglio la ventosità in prossimità del mozzo delle turbine eoliche, con dei sensori certificati, certificabili anche dalle banche, in modo che quei dati poi siano spendibili da un punto di vista dei finanziatori. E quindi cosa vuol dire? Che ci saranno tante torri in mezzo al mare? Purtroppo in mezzo al mare non troppo, perché a causa dell'elevato costano un sacco di soldi, torri ne avremo poche. E allora come si fa? Una senz'altro, ma ne mettiamo una serie anche a terra, sulle coste, quindi diciamo ci sono 9 torri terrestri e una torre marina. E più ci sono diversi sponsor che si stanno facendo avanti per fornirci altre torri di misura aggiuntive. D'accordo, però cioè, di fatto voi in realtà riuscite, grazie a un sistema di elaborazione dei dati, in qualche modo a interpolare, a capire che cosa succede in mezzo al mare, anche senza bisogno di riempire il mare di torri anemometriche. Sì, sì, perché la misura della torre è ovviamente di tipo puntuale, nulla dice di quello che accade in una regione abbastanza prossima alla stessa. Quindi in genere si usano dei modelli di simulazione numerica e noi ci affidiamo a questo con dei modelli di previsione meteorologica a mesoscala, cioè quelli normalmente utilizzati per le previsioni meteo, dove però la ricostruzione del terreno e quindi anche della superficie marina viene fatta con un dettaglio più elevato, un punto ogni chilometro, fino ad arrivare anche un punto ogni 200 metri di distanza l'uno dall'altro, e a questo punto possiamo avere una conoscenza non più puntuale dell'informazione di ventosità e direzione del vento, ma invece a questo punto distribuita su un territorio molto più caratterizzato, insomma. Insomma, sta di fatto che questa rete unita a questo sistema di calcolo, che è abbastanza complicato come dicevamo, consentirà da un lato di individuare le location più promettenti dove andare a piazzare eventuali parchi eolici, e dall'altro dà un, come dire, accesso a un sistema di previsione a breve tempo della producibilità degli impianti eolici, vero? Cioè noi sappiamo, magari sapremo dire domani ci aspettiamo che più o meno gli impianti eolici producano tot. Esatto, perché noi il modello meteorologico lo utilizziamo in due modi, prima all'indietro nel tempo per ricostruire ciò che c'è stato nell'Adriatico e essere certi quindi che la risorsa sia adeguata a un'installazione eolica. Da quel momento in poi tutto il nostro sistema seguita a funzionare anche dopo la fine del progetto e diventa un sistema di aiuto a coloro che hanno deciso di investire nel nostro mare con turbine eoliche, riuscendo a garantire la previsione della produzione delle turbine, individualmente turbina per turbina, nelle prossime 24 ore, 48 ore, garantire così anche un migliore assestamento per la rete elettrica. Certo. La rete elettrica sa esattamente come comportarsi a fronte dell'emissione di questa energia rinnovabile di grande quantità. Senta, poi c'è un secondo obiettivo di questo progetto, che invece riguarda in qualche modo la spartizione della risorsa vento tra tutti gli stati che si affacciano sull'Adriatico. Com'è la situazione da questo punto di vista? Ci sono molti contenziosi? Beh, sì, al momento abbiamo i parchi eolici offshore proposti in Italia, tutti più o meno bocciati e fermi per problemi ambientali, ma soprattutto paesaggistici. Poi abbiamo anche un problema locale di normative. Noi al momento anche le linee guida nazionali che sono uscite a, se non vado errato, settembre del 2010, sull'eolico offshore hanno un buco molto grande. Praticamente non esiste l'eolico offshore in quella normativa, non questo è il problema. Sì. E questo vale per il nazionale. Se poi lo trasportiamo sulle singole regioni, dove ogni singola regione ha delle particolari attenzioni all'ambiente che lo circonda, diventa ancora più complesso. Se poi andremo in acque internazionali è un'apoteosi. Non riesco a capire come vi aspettate che delle misure di vento determinino che tutte le istituzioni regionali, nazionali e internazionali rinsaviscano e riescano a mettersi d'accordo. No, non è solo le misure di vento, perché all'interno del progetto c'è anche l'individuazione di tutte le aree che devono essere escluse per problemi ambientali. Ogni Stato e ogni regione approfondirà le tematiche ambientali e quindi c'è proprio una parte che serve a definire quelle che sono le aree escluse, un'altra che serve a definire invece le infrastrutture marine, perché anche gli elettrodotti che vanno a terra non possono essere casuali, bisogna progettarli dall'inizio e capire dove andranno a finire, certo. E non accavallarsi con progetti magari già esistenti. Grazie Renato Ricci. Grazie a lei, dottor Melis, e buona serata a tutti. È tutto, a domani.